Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Andare al lavoro in bicicletta ed essere pagati per questo succede in Francia e in altri paesi. E gli italiani che cosa ne pensano? Benzina, macchine, tutti da soli in macchina, raccordo pieno, tangenziale piena. Sarebbe impossibile. È comodo, uno fa ginnastica, risparmi la benzina, il parcheggio. Innanzitutto aggiustare le strade che non funzionano, ci sono solo piene di buche. Poi passare alle ciclabili. Se vivesse in città andrebbe al lavoro in bicicletta? Sì, sì, ci andrei. Perché? Perché intanto uno si mantiene in allenamento e poi fa meno inquinamento nella... Smart mobility, strong economy. Queste sono le parole d'ordine per cui per una settimana parleremo di mobilità in tutta Europa. Anche a Roma Capitale si inizierà a parlare di questa settimana della mobilità che c'è da 15 anni, per una settimana in Europa si parla di mobilità. Cosa si dice? Si dice quello che avete sentito nella premessa. Quanto sarebbe bello avere delle città con mezzi che circolano in maniera umana, ecologicamente impattanti. Quanto sarebbe bello che ci fosse sicurezza, che non si rischia, che le persone si sorridano, che non si faccia coltellate per i parcheggi, che non si schiacciano le vecchie sui passaggi pedonali, che non si occupino i parcheggi per disabili abusivamente, che nessuno strilli, urla, faccia casino, non ci siano code, che non sia un incubo stare in macchina. Quanto sarebbe bello. Beh, questa mattina vi parliamo proprio di questo. Smart mobility, strong economy. Per farlo abbiamo iniziato con una testimonial calda, l'abbiamo presa adesso per strada, l'abbiamo portata dentro lo studio. Flavia, buongiorno. Buongiorno. Dov'eri venerdì alle 9? Ero a Piazza Pasquino. Piazza Pasquino, una zona amena di Roma, là vicino a Corso Vittorio. Cosa ti è accaduto? Mi è accaduto che c'era un signore con una Ferrari in Piazza Pasquino. Ma e non sgasava. È una zona ad accesso limitato? Assolutamente sì. Lui passava? Lui passava, era lì, aveva il motore acceso. Io mi sono avvicinato, ho fatto è necessario che lei tenga il motore acceso. Sgassava facendo rumore? Facendo rumore. Rombando? Rombando in maniera assolutamente... Com'era questo signore? Descrivimelo. Era abbastanza abbronzato, con una camicia aperta. Ah, un pappone, va. Vabbè, un pappone di quei tipi là un po' coatti come ci piacciono a Roma. Un pappone che liberamente cercava, perché siamo un paese democratico, circolava per Roma la sera sotto Pasquino, luogo storico in cui il popolo lasciava il suo dileggio verso il potere, strombazzava e rumoreggiava con il suo Ferrari. Esatto, e io mi sono accostata molto educatamente, ho detto scusi, è proprio necessario che lei lasci il motore acceso in questa maniera? E di tutta risposta mi ha detto sì, è una Ferrari, sennò che ce l'ho a fa? E poi fatti i cazzi tuoi, chi sei? E da lì, insomma, io sono rimasta abbastanza basita, gli ho detto guardi, magari chiamiamo le forze dell'ordine e diciamo che in tutta quattro ha cominciato ad andare oltre, diciamo, con... Quindi con... per salvarti la pellaccia hai preferito andartene verso il tuo incerto destino. Resta esatto. Con noi Flavia. Allora, smart mobility, strong economy. Questa è la prima testimonianza, aspettiamo le vostre. 800 24 0024. A tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024. Stiamo parlando della settimana europea della mobilità che inizia oggi, da 15 anni se ne parla, è una cosa seria. Le persone che tecnicamente hanno gli strumenti per cercare di migliorare quella che è la nostra drammatica situazione di automobilisti, di cittadini, di abitanti delle città, dei centri storici, delle periferie, ci sono degli strumenti probabilmente per cui potrebbero cambiare le cose. Ma come abbiamo sentito poco fa dalla testimonianza calda della nostra amica Flavia, che ci è venuta a raccontare quello che è accaduto, è molto difficile intervenire quando il livello è così arcaico, così lontano dalla regola, così difficile da definire. Eppure i problemi probabilmente sono definibili in dei macrosistemi sui quali si potrebbe intervenire. Ingegner Enrico Pagliari, buongiorno. Buongiorno. Coordinatore area tecnica ACI. Ci spiega, al di là delle belle parole, dei tagli dei nastri, delle autorità, in cosa significa questa settimana europea della mobilità? Cambia qualcosa dopo 15 anni o comunque sono sempre belle parole? La seconda è quella giusta. Vabbè, mi piace la sua schiettezza. Quindi ogni anno da 15 anni in Europa ci facciamo dei grandi pipponi sull'ecologia, la sicurezza, l'ambiente, ma siamo proprio poco decisi, almeno in Italia, di far cambiare qualcosa. Cosa vede alla base proprio del problema vero? Il problema è genetico, sono gli automobilisti il problema. Il problema è di mercato, che vuole che comunque compriamo tante macchine e ce le ammassiamo una sopra l'altra. Il problema è di strutture, il problema è culturale. Lei, se dovesse iniziare, fosse plenipotenziario, da cosa comincerebbe? Dalla cultura e dalla struttura, dalle infrastrutture, in questo caso per la mobilità. La cultura, perché ecco, abbiamo quei comportamenti che avete anche raccontato, che ci hanno raccontato i vostri ospiti in studio, e quindi lì c'è molto da fare. Ma a livello di struttura, poi, che poi non è una struttura, cioè per me, io la prima cosa che farei, diciamo, devi intervenire, che faresti? Io la prima cosa che farei funzionare bene quello che c'è, quindi farei manutenzione alle strade che ci sono, intanto atturiamo le buche. Ma basta, mi scusi, ingegnere, molte volte fare un po' di romanella, come si dice alle nostre parti, mettere un po' d'asfalto e coprire le buche, no, il problema? No, non è quello, perché ecco, ci sono esempi di strade dove ha ceduto il sottofondo e quindi la romanella costa più che rifare la strada nuova, no? Perché io intervengo sempre con la toppa. Ma quella è la vera ragione per cui continua a persistere l'istituto della Romanella, costa molto, quindi fa molto piacere alle persone che la mettono in pratica. Diciamo, si innescano altri meccanismi. Poi ecco, la seconda cosa che gestionale, penso alla situazione per esempio del trasporto pubblico a Roma. Poi allarghiamo, ingegnere, che noi parliamo ingegnere, partiamo da Roma come esempio chiave, sì, visto che è una città, certo, questo momento è sotto l'occhio di tutti, ma mi aspetterei che dal pubblico, da altre città, telefonando all'800240024, arrivassero altre testimonianze. Non credo che in tutta Italia siano situazioni per cui la gente è tentata ad impiccarsi, probabilmente sono delle situazioni che funzionano, oppure avete delle idee su quali siano i problemi endemici, strutturali delle vostre città? Beh, chiamate questa mattina. Allora, partiamo dall'esempio romano. Allora, una grande città, una metropoli, una città anche d'arte, può tollerare l'attraversamento di un traffico intenso? Qualcuno deve fare un sacrificio? Sì, dovremmo trovare delle alternative che possono essere, ecco, sostenibili ambientalmente, come andare a piedi o bicicletta. Che a Roma non è facilissimo. E soprattutto incrementare il trasporto pubblico, cioè l'incidenza del trasporto pubblico sulle quote di spostamenti. E lì c'è un discorso su Roma sia strutturale, nel senso che andrebbe fortemente rivista proprio la rete stradale, la rete del trasporto pubblico, perché è fatta con una domanda degli anni 30. Oggi la città è cambiata, le residenze, tecnicamente noi parliamo di origini e destinazioni, no? Io esco di casa e devo recarmi a una destinazione perché devo andare a lavorare, devo andare a fare spesa, devo fare delle commissioni, eccetera. Oggi, se confrontiamo le origini e destinazioni degli anni 30, quando fu disegnata quella rete, andiamo a vedere con le origini e destinazioni di oggi, ci accorgiamo che è un po' saltato il banco. Cioè le strade, no? Non servono più per percorrere gli itinerari che venivano pensati allora. Esatto, anche i servizi, non solo le strade. Però io vedo delle differenze sostanziali, sono alcune città in cui le metropolitane sono dei salotti, si va benissimo, attraversano tutta la città, alcune città probabilmente hanno delle strutture, noi parliamo di città che hanno sempre delle origini antiche, dei tesori nascosti, delle cose intoccabili e intangibili, dei luoghi sacri, quindi è un po' difficile pensare che possano essere attraversate da dei flussi di trasporto che viaggino secondo quelle che sono i desideri e le tendenze del momento. Fermiamoci solo un secondo però, mentre io le domanderò adesso, mentre lei ci pensa, se lei dovesse cominciare da Roma dove comincerebbe? L'inizio, l'incipit che abbiamo fatto sulle biciclette scatena naturalmente tutta l'immaginifica voglia di tutti di dire andiamo in bicicletta tutti, ci salviamo la vita. Felice, buongiorno. Buongiorno, io dovendo dire due cose velocissime perché lo spazio è limitato, vorrei dire questo: io sono un ciclista da oltre 25 anni e direi che sono un ciclista felice con l'S minuscola. E dove va in bicicletta lei? Che città? Io tutti i movimenti che non comprendono la famiglia. Sì, ma in quale città? Dico, in quale città? A Torino. Vado a lavorare, faccio le commissioni, ovviamente non commissioni che è una città più facilmente ciclabile, naturalmente, Torino. Ma mica poi tanto, perché il problema, come dicevo alla signorina prima, il problema è che bisognerebbe togliere spazio alle auto. Fino a che le auto vanno ovunque, parcheggiano ovunque, il problema è che bisogna dare uno spazio vero, reale al mezzo pubblico e bisogna consentire alla bicicletta di essere utilizzata, perché molta gente ha paura di andare in bicicletta, perché le macchine ti passano vicino a velocità eccessive, con rischio anche di agganciarti, di farti cadere. Perché salvo difficoltà di territorio, città con molte salite, Roma c'ha 7 colli, in bicicletta è un pochino più difficile, Torino almeno il centro storico, se non va in collina se lo può trasportare, se lo può fare tranquillamente. La vera difficoltà è che in realtà il ciclista, fra ciclista, automobilista, comunque esiste una faida perenne, è inutile dirlo. Noi ciclisti, anch'io mi ci metto, che spesso vado in bicicletta, li vediamo come nemici, perché al semaforo ci viene il cardiopalma quando abbiamo la macchina dietro che scatta, quando ci accorgiamo che l'autobus nemmeno ci vede e fa una curva stretta e rischiamo di andare sotto le ruote, sentiamo con odio la sua presenza. Altresì, quando noi siamo al volante, vediamo i ciclisti, diciamo quanto ci rallentano, possibile che una città vanno in bicicletta, andassero a piedi, prendessero i mezzi. Quindi è un binomio difficilmente risolvibile. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo raccontare la mia esperienza. Io abito vicino a Milano, a 20 km da Milano, a Seregno. Io uso per andare a lavoro a Milano, uso la bicicletta e il treno, cioè uso l'intermodalità, quindi vuol dire che io prendo la mia bicicletta, pago il regolare biglietto e vado sul treno. Ed è un mezzo che, paragonato ad altri mezzi, mi consente anche di risparmiare tempo, perché in orario di punta io riesco ad arrivare al lavoro in circa 45 minuti. Ci sono degli straordinari eroici rappresentanti di questa disciplina che anche a Roma entrano in metropolitana con le bici pieghevoli, poi scendono, ma li guardano tutti come si guarda un alieno, un pazzo, gli ridono dietro. L'ascoltatore che mi scrive questo sms, come potete pensare che gli italiani vadano in bici quando tutti quelli che sono in macchina li reputano dei rompicoglioni? Ingegnere Enrico Pagliari, su questa prima assaggio, l'alternativa della bicicletta sembra la migliore, la più ecologica, la più semplice, la bicicletta costa poco, è leggera, fa bene, divertente e tutto, però sembra un'utopia in molte città italiane. Sì, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, ecco, è stato evidenziato dai suoi ospiti, ci vorrebbe una separazione delle correnti di traffico, cioè dovrebbero essere separate, perché è difficile far convivere la bicicletta con le autovetture, tanto più con i mezzi pesanti. Quindi piste ciclabili vere, reali. È proprio l'utente vulnerabile è quello che ci rimette, e questo ce lo dicono anche i dati dell'incidentalità, che peraltro, ecco, in questi anni hanno da un lato visto l'incremento dell'uso della bicicletta, ma hanno anche visto l'incremento, ne parlo, i 14 anni del periodo in cui ci è stato chiesto di dimezzare i morti, sì, siamo riusciti a diminuirli. Se andiamo a vedere le biciclette, c'è stato un incremento del 35%. Perché è molto più diffusa adesso la bicicletta, quindi è carina, è venuta di moda, ci va molta gente, certo. Esatto, però è anche più vulnerabile, cioè presta il fianco. Io faccio sempre questo esempio quando mi confronto con i politici su questo, io assessore. Dico, se lei dice io voglio mettere in campo delle soluzioni di mobilità sostenibile e promuovo la bicicletta, dopo un anno però ritorno, mi confronto con i miei elettori e c'ho molti più incidenti, più morti e feriti. Altra cosa, in molti comuni poi mettono queste biciclette a disposizione dei cittadini o con un affitto, quelle di Roma mi sembra che siano scomparse, se le fregano tutte. La gente se le frega, quindi non abbiamo nemmeno il senso civico di dire che è una bicicletta di tutti, che sarebbe meraviglioso. Uno prende, se la frega, la rivernicia e se la porta in giro. Ci fermiamo solo un istante, ci sono molte telefonate partendo dalla bicicletta, ma allarghiamo anche, perché questa puntata ha lo scopo non di rompere le uova nel paniere a chi festeggia questa importante settimana mobilità, ma di capire che poi i problemi in realtà molte volte sono più profondamente radicati nella realtà di quanto si possa poi con belle parole pensare di risolvere. Andiamo tutti in bicicletta, fare la biciclettata dei personaggi famosi o degli amministratori, come faceva l'ex sindaco Marino, andava sempre in bicicletta col furgoncino dei vigili che poi lo ricaricavano voltata stata voltata la curva, come quando a Perugia vollero inaugurare la fontana in piazza per il Duce, ma non c'era l'acquedotto, ci attaccarono la pompa dei pompieri, la fontana zampillava quando passò il Duce e poi naturalmente passarono anni. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024 dal 16 al 22 settembre, settimana della mobilità. Le parole d'ordine sono smart mobility, strong economy. Stiamo cercando di capire cosa significhi applicato nella realtà di tutti i giorni. Emerge come al solito il dissidio, direi quasi ormai è soltanto un cascame ideologico, tra chi dice con le biciclette si risolverebbe il problema e chi dice voi ciclisti poi camminate sui marciapiede, poi andate contromano, poi rallentate il traffico. Insomma, le città non sono attrezzate, o perlomeno non tutte, per avere una libera circolazione in bicicletta, a meno che, come ha detto il nostro ospite, che è l'ingegnere Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica ACI, si facciano delle aree preposte di transito per le biciclette. Vuol dire una pista ciclabile vera, non una pista ciclabile che è attraversata ogni 5 metri da una strada con automobili. Se uno deve stare attento a destra, a sinistra e sopra, non va in bicicletta, tanto vale che vada a piedi. Sentiamo Vittorio da Milano. Vittorio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io le spiego il lavoro che faccio, così vi rendete un po' conto della inutilità delle piste ciclabili. Inutilità? Sono inutili e pericolose, per il semplice motivo che io ho un lavoro, mi chiamano durante la settimana per fare interventi di assistenza sui condizionatori, per cui io giro Milano diciamo quotidianamente, io uso sia il ciclomotore ma appena posso uso la bicicletta. Perché lei non deve portarsi dietro grosse attrezzature? Sì, no, uno zainetto dei 10 kg, ecco, è più che sufficiente. Io ho poi due borse dove metto le cose più pesanti e sto insegnando a mio figlio come andare nel traffico. A 14 anni è stato molto dura, perché mia moglie sa usare la bicicletta, ma sinceramente non sa la differenza tra il freno davanti e il freno di dietro, per cui se usasse la bicicletta sarebbe anche in pericolo sulla pista ciclabile. Meglio che vada a piedi, quindi. Ecco, mio figlio a 15 anni lo sto proprio addestrando a comportarsi in maniera molto veloce nel traffico. Lei pensa che io abito fuori Milano, riesco ad attraversare Milano in un'ora e un quarto, cioè ad andare dalla parte opposta e tornare indietro un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Milano si presta, che Milano è in piano praticamente, diciamo sì. Che ci si va meglio che Roma. Sì, sì, Milano è una città completamente diversa da Roma, anche perché ci sono... Ma qual è il problema allora? Perché dici che le piste non servono? Il problema è che le piste ciclabili vanno bene per i bambini fino a 6-7 anni e poi per gli anziani. Per il resto sono inutilizzabili, cioè io con una bicicletta vado a 25 km all'ora. Ah, lei dice si va troppo piano, il piste ciclabile è per fare la passeggiatina. È per fare la passeggiatina, poi sulle piste ciclabili trovi le radici, trovi la polvere, trovi la sabbia. La gente che cammina, la gente con le carrozzine, di tutto. La gente che cammina, le carrozzine. Con i bambini, certo. I bambini con le biciclettine, con le rotelline, bimbo minchia, che sono terribili, certo, è chiaro. Sono terribili, io una volta mi trovavo su un pezzettino di pista ciclabile, un bambino di 6 anni guardava dall'altra parte e mi stava venendo addosso. E poi va a toccare un bambino. Lapidazione sul posto, certo. Ah, io lo facevo fuori. Se ne avanti però. Le piste ciclabili non sono altro che un ghettizzare le biciclette, ghettizzare le macchine. Quindi lei, secondo lei, la bici dovrebbe camminare liberamente in mezzo al traffico? La bici dovrebbe essere rispettata. Se fosse rispettata, io per esempio c'è mio cognato, c'è questa guerra, la vivo in casa, perché il mio cliente dice quando vedo tante bici io non le faccio neanche passare. Ma perché? Perché le odia, è chiaro. Perché le odia. Però allora... lei diciamo trasformare l'attraversamento delle città come uno sport estremo, ma poi c'ha un suo senso. Silvia, sempre da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono una ciclista consueta proprio, perché vado sempre in bicicletta e mi rendo conto che gli automobilisti sono i primi che si lamentano di noi, ma in realtà sono i primi che si comportano male, abusano. Io attraverso la città ci sono delle piste ciclabili molto ridicole che sono state fatte dall'amministrazione Moratti così prima della eventuale sua... Ma perché ridicole? Perché non funzionano? Ridicole perché sono fatte con il pennello praticamente, con la vernice, e sopra sistematicamente si fermano le automobili. Ah, ma che sono dei parcheggi praticamente? Sì, le usano come parcheggi. Io ho avvisato, c'erano gli vigili fortunatamente, li ho avvisati, gli ho detto guardate che qui ci sono delle persone che dove io devo passare, perché rischio anche di essere investita dalle macchine, questi si fermano e le usano come parcheggio mi hanno detto: signora, mi dispiace, abbiamo cose più importanti da fare. Certo, quello è la stessa risposta che fanno quando uno trova un parcheggio occupato per disabili. Esatto, io mi sono sentita sempre presa in giro. Comunque questa città, una città così evoluta come Milano, dei ciclisti se ne frega altamente. Fermo un attimo, Silvia, chiaro. Allora, ingegnere Enrico Pagliari, abbiamo sentito vari punti di vista. Finora, vede, il passo avanti nella percezione generale sembra che l'unica alternativa al caos, al casino, al traffico, ai parcheggi, sia la bicicletta. Mi viene in mente città molto più evolute, non so, Amsterdam, mi dice Fabrizio Intonti che c'è stato da poco, ci sono tre strade, per semplificarla, una per le macchine, una per i pedoni, una per le biciclette, e poi ognuno se la vede come vuole. Questo è un punto d'arrivo impossibile in Italia? Bisogna lavorare per lungo tempo per arrivare a questa situazione, e poi onestamente le città italiane spesso per via dei centri storici hanno grossi problemi, però nulla vieta che magari alcune strade dei centri storici vengano destinate solamente... Ma è proprio una bestemmia dire che i centri storici potrebbero anche essere lasciati fuori dal traffico delle automobili? No, ci sono delle situazioni in cui questo potrebbe essere... E quali sono di media le resistenze grosse perché questo accada? Ma la prima è degli esercizi commerciali. Che, come parli di qualche provvedimento sul traffico, vedono, diciamo, in pericolo il loro reddito, e quindi a prescindere dalla bontà del provvedimento non si può fare. Perché l'equazione perfetta è macchina in seconda fila, signore e signora che scendono, acquistano tranquillamente e poi se ne rivanno con i pacchi. Questo ragionamento, dicevo, la mia posizione, non mi cambiare niente perché sennò no, non mi tornano più i conti. Invece, però non abbiamo citato. È dimostrato che invece dove ci sono pesanti provvedimenti di regolamentazione del traffico, forti penalizzazioni, poi gli esercizi commerciali sono i primi che hanno i maggiori benefici. Però è difficile stare, e questo è una parte del problema. Nessuno ancora però ha fatto menzione, non so, ad esempio, alle auto ibride. Io vedo a Roma, a Milano, oggi i taxi sono i primi che sono taxi ibridi. Salire in un'automobile che non fa rumore, silenziosa, che non emette gas, già sembra una grande liberazione. Ma anche questo, l'elettrificazione della circolazione, qualcosa che appartiene a un futuro ipotetico e molto lontano, o potrebbe essere un passo avanti? No, può essere un passo avanti perché la tecnologia ha fatto notevoli miglioramenti proprio nell'ultimo periodo, quindi ecco, dal punto di vista ambientale dell'inquinamento sia atmosferico ma anche da rumore, perché poi sono più silenziose come diceva lei, sicuramente si potrebbe fare qualcosa. Solo ecco, purtroppo parliamo di soluzioni che andrebbero messe insieme, tirate fuori tutti insieme, perché non si può pensare, prima ecco sentivo dei discorsi, andiamo tutti in bicicletta, quindi 100% degli spostamenti in bicicletta o 100% con la mobilità elettrica. Diciamo, se agiamo in più direzioni, ovviamente con modalità di spostamenti virtuosi, probabilmente alla fine otteniamo. Però si rende conto, ingegnere, in delle città in cui il problema ancora è la sosta selvaggia, qui normalmente sono persone, io nel quartiere Prati, parlo della mia esperienza, ci sono ormai delle aree stradali che sono considerate parcheggio, in realtà non lo sono. La mattina sono sempre le solite 5-6 macchine, ormai l'hanno eletto come loro parcheggio privato, comprese le rampe di accesso per disabili e marciapiedi. Nessuno dice niente, c'è un'impunità totale, non c'è mai qualcuno che un giorno passa, rastrella e porta via. Quindi le città sono invase oltre gli spazi già preposti per i parcheggi, pochi o tanti che siano. Quindi vede che ritorniamo, possiamo andare anche tutti in bicicletta, ma i 10 infami che continueranno a mettere la macchina sul marciapiede tutti i giorni prenderanno la macchina per andare a lavorare, forse anche per fare 500 metri, e l'appoggeranno su quel marciapiede perché hanno deciso che quello per loro è un parcheggio. Sì, ecco, lì ci sono due fenomeni, eh? Uno comportamentale della persona che lascia la macchina in sosta illegale, uno strutturale, perché purtroppo la nostra città, ma non solo Roma, qui anche altre città italiane, invece di lasciare i garage a piano terra o a piano interrato, a piano terra e a piano interrato sono diventati negozi, attività commerciali, e questo ha portato che poi i veicoli che devono stare lì sotto ce li troviamo su strada. Quindi un problema sarebbe quello che bisognerebbe scavare luoghi dove mettere le macchine, ecco, già sarebbe qualcosa. Sì, chiamano i cosiddetti parcheggi pertinenziali. Sì, ma le posso dire una cosa, a Piazza Cavour ci hanno messo 5 anni, io parlo di Roma, hanno fatto un fantastico parcheggio, sembra una discoteca, è bellissimo, danno anche una bicicletta omaggio se uno esce dalla macchina. La sera se uno va al cinema Adriano, lo dico da romano, con bel cinema avanti a questa piazza, ci sono macchine in decupla fila, il parcheggio è vuoto, perché non vogliono spendere 2 euro per lasciare la macchina 2 ore dentro il parcheggio. Il problema è, chiamiamolo, di comportamenti. Di... Sentiamo Flavia, sento Flavia, l'ho tenuta muta finora, la cittadina che questa mattina ci ha raccontato la sua brutta avventura. Ecco, oltre lo scontro col pappone, un tuo punto di vista rispetto a quello che abbiamo detto? Ma io credo, appunto, sentendo anche prima di tutto Milano, e quindi mi viene anche un po' una lacrima, perché loro sono 100 volte avanti rispetto a Roma. Però si lamentano anche loro. Però si lamentano. Però noi siamo, diciamo, in una situazione veramente disagiata, e soprattutto, appunto, non è soltanto le infrastrutture, che sicuramente va pensato un piano anche con le facoltà di architettura, perché io penso che debba esserci un ponte tra università e amministrazione pubblica, che ancora non c'è stato a Roma, quindi pensare in grande. Ma soprattutto di culturale, perché appunto abbiamo parcheggio, noi possiamo fare tutte le strutture del mondo, piste ciclabili, ma bisogna insegnare ai cittadini ad utilizzare mezzi alternativi rispetto a quello che sono le macchine. Adesso i romani vogliono il parcheggio sotto al posto dove vanno, non hanno voglia di spostarsi. Se invece fosse fatta un'opera di promozione dei mezzi pubblici, delle piste ciclabili, forse riusciremmo, diciamo, ma ad avere... Ma c'è una certa riottosità a pagare il parcheggio. Io vedo le volte anche strisce blu, ma in tutte le città d'Italia libere la macchina la metti in seconda fila, perché lì dovresti pagare, dovresti comunque andare in un parcometro, mettere dentro le monetine. Molti mi dicono poi i parcometri non funzionano, quindi tanto vale. Però questa cosa, diciamo, è un po' un gatto che si morde la coda, nel senso, gli autobus arrivano tardi perché c'è traffico, il parcometro non funziona. In realtà, appunto, bisogna capire come cercare di bloccare questo circolo vizioso, e secondo me bisogna fare un pressing sia sulle infrastrutture che funzionino meglio, ma anche culturale, partendo per esempio anche dalle scuole, dall'educazione civica, e molte volte non c'è, insomma, su questo. Se bisognerebbe già insegnare da bambini, esatto, quando sono in culla, e non abituarli come nel film I Mostri con Tognazzi, che spiega al bambino esatto come fare le corna a quello vicino. Fermiamoci solo un istante per una pausa. 800 24 00 24, tra poco. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, cosa vogliamo fare per le nostre città? Ma seriamente, siamo veramente interessati a vivere meglio? Qualcuno pensa sempre che i passi avanti li facciano gli altri, mantiene il suo piccolo privilegio, la macchina la prendo perché mi serve, la parcheggio dove mi pare, che tanto lo fanno tutti, ma che mi importa di andare in bicicletta, e le biciclette in fondo quando piove come si fa, e via dicendo. Umberto, buongiorno. Io sono di Roma e ho una antica esperienza di questa città. Quando eravamo piccoli, noi abitavamo al centro e mio padre l'automobile la metteva in un garage a Monte Mario. Questo però per significare... Vi facevate una bella passeggiata? No, prendevamo i mezzi. Ah, con i mezzi. I mezzi pubblici. Ah, venendo da fuori la metteva a Monte Mario, prendevate i mezzi. Come giusto che debba essere. Come dovrebbe essere, perché le automobili non si può pensare di lasciarle in mezzo alla strada. Ormai le strade di Roma sono diventate tutto un parcheggio, sicché... Anche i marciapiede? No, ma poi si circola per trovare un posto, e quando cammini nei parcheggi, non cammini mai su una strada. Questo significa che c'è qualcosa che non funziona, e secondo me la cosa che non funziona è che tutti all'epoca avevamo il posto di lavoro vicino casa, ovvero prendevamo la casa in affitto vicino al posto di lavoro. Il fatto di aver decentrato, e invece non è stato decentrato niente, in particolare a Roma, parlo per questa città che la conosco, e soprattutto il fatto di non aver generato fiscalmente delle facilitazioni per poter cambiare casa, in modo che se mi si allontana il posto di lavoro, ma costo io con la casa. Beh, uno che abita in centro difficilmente va a abitare in periferia perché ci lavora, è un po' difficile questo chiedere. Ma in centro ormai non ci abita più nessuno a Roma. Questo anche è anche vero. Forse lei. ma nessun altro, sì, sì. Perché è diventato impossibile accedervi, è diventato impossibile non è che non ci abitano, è che gli appartamenti li affittano a uffici, conviene molto di più, quindi esatto. In un palazzo anni 20 c'entrano 300 persone al giorno invece che entrarci le solite 20 che sarebbero per cui sarebbe destinata anche per questo cadono le case, perché poi ristrutturano, sfondellano, allargano, fanno i loft ma l'esempio più palese, se lei ha modo poi di fare una passeggiata con qualche suo ascoltatore, una passeggiata al Ministero della Sanità nuovo all'Eur, lei vedrà che nonostante sia una costruzione nuova che dovrebbe contenere le automobili di tutti i dipendenti, più di tutti quelli che vanno lì per chiedere non informazioni, no, stanno tutti in mezzo alla strada ed è una strada a due corsie. Perciò così è chiaro. Vabbè, che adesso, non ci se sarà. No facciamo l'angolo dell'Umarell. Va bene, siamo d'accordo, è così. Tommaso. Buongiorno. Prima di tutto devo dire che io non sono un ciclista, quindi la mia idea potrebbe non riscontrare il favore dei ciclisti. No, mica è obbligo, mica è buoni e cattivi, ciclisti, automobilisti, ci saranno altre vie di mezzo, no? No, non è che li odio, semplicemente non sono un ciclista. Beh, mica è obbligo. Lo ammetto. Sì. E allora l'idea che ho avuto io è riguarda anche a un modo per contenere l'inquinamento, cioè sarebbe nelle vie più trafficate della città mettere dei tutor o degli autovelox, ma metterne tanti, mi rendo conto che è costoso, però mettere tanti autovelox a velocità basse, molto basse. Prima l'ascoltatore diceva che lui quando va in bicicletta e ci va per lavoro, quindi deve spostarsi velocemente, va sui 20-25 km orari. Che è tanto. E io direi... È tanto, devo dire. Per la bicicletta è tanto, per l'auto in effetti può sembrare poco, però se in certe strade, non in tutte ovviamente, quelle più trafficate, si mettessero negli orari più, diciamo, di lavoro, cioè quelli in cui si entra in ufficio, si esce dall'ufficio, eccetera, degli autovelox a bassa velocità, prima di tutto, intorno appunto ai 20-25 km orari, uno potrebbe pensare che palla andare in giro in macchina a questa velocità, però alla fine, come una qualsiasi persona di buon senso sa, dovrebbe esserci certezza della sanzione, perché a Roma ci sono delle strade, dico Roma, dove c'è il 30 all'ora di ma non lo rispetta nessuno perché non c'è mai l'autovelox, quindi nessuno dice vabbè sti 30 all'ora fa ridere, è una buffonata di sinistra, dicono queste cose qua. Mila da Milano. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, no, oltre a tutte le problematiche che avete elencato finora, tutte giuste e perfette, io sono ciclista. C'è anche il problema di dove riporre le biciclette nei condomini, anche nei condomini nuovi, di nuova, non vedo mai un locale sicuro protetto dalle incendie dove uno. Lo so, c'è sempre il problema, nell'androne non si può, bisogna fare la riunione di condominio, i non ciclisti si oppongono perché gli dà fastidio vedere le affastellate. Usciamo un attimo però dal binomio bici-auto perché sennò limitiamo la trasmissione. Allora, ingegnere Enrico Pagliari, visto che fra le parole d'ordine c'è quella della sicurezza e visto che ancora nelle nostre città si trova molto spesso gente stesa per terra, vuoi col motorino, vuoi con la bicicletta o vuoi anche a guida dell'automobile o vuoi anche sotto le rotaie di un tram. Ecco, quale sarebbe il punto da fare sul tema della sicurezza? Ma ci sarebbe molto da fare soprattutto per le utenze vulnerabili in città, perché il problema grosso delle aree urbane sono proprio i pedoni e i ciclisti. Pedoni e ciclisti, certo. Ecco, quindi e scooteristi occorrerebbe... diciamo, perché anche lo scooterista sì, è facile a vederlo spalmato sul, cioè una buona probabilità di rimanere incidentati, quindi è che andrebbero adottate delle soluzioni che assicurassero sicurezza e accessibilità soprattutto, perché poi non è solo un discorso di sicurezza, è anche di accessibilità. Ma la proposta dell'ascoltatore di imporre più limiti, dei limitatori di velocità nelle città, perché in effetti si va troppo forte. Io mi comporterei diversamente, farei una graduatoria di strade e le dividerei in due grosse categorie, le strade per i veicoli cosiddette di scorrimento e lì lascerei i 50 km orari, invece le strade dove ci devono stare o solo o prevalentemente i ciclisti e pedoni, lì mi sta bene il 30 all'ora. Cosiddette zone 30. Vabbè, noi abbiamo provato, ingegnere, a dare una piccola occhiata a quelli che sono i problemi. Le avrà più sicuramente sott'occhio di quelli che abbiamo noi. Non possiamo che augurare questa settimana che esca, magari dopo 15 anni, qualcosa di più concreto. Alla prossima.